l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia, 6 minuti dopo le 12 in diretta su Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale dedicato all'Europa. Euronetplus.eu, il portale del network al quale apparteniamo, se volete avere l'occasione di vedere tanti reportage, tante inchieste, tante voci in tante lingue diverse. Radio24.it invece è il sito da dove poter poi riascoltare la puntata e trovare tutti i contributi extra. Ancora @ Federico Taddia, Twitter e Facebook invece per trovare tutti i link relativi agli argomenti che andremo a toccare. Anche oggi viaggeremo molto, vi racconteremo di tante esperienze dal nord dell'Europa al sud dell'Europa. Andremo veramente da Oslo alla Sicilia, tante voci, tante possibilità, tante opportunità di questa Europa che ci piace raccontare. Prima tappa, le isole Svalbard. La solita gita scolastica, si sono detti questo, una classe del liceo Filzi di Rovereto, siamo in provincia di Trento, un liceo scientifico, e hanno dato vita a un progetto assolutamente innovativo, un progetto in più fasi, in più step, si è andato dall'ideazione alla raccolta fondi, fino alla possibilità di vivere questa esperienza, 10 giorni a fare vera ricerca scientifica alle isole Svalbard. Le hanno conosciute prima loro di Checco Zalone, che poi le ha portate al cinema col suo ultimo film di successo. Oggi stanno rientrando dopo aver per l'appunto vissuto questa esperienza da ricercatori sul campo. Diamo il benvenuto al professore che ha coordinato tutto il progetto, Matteo Cattadori. Ciao Matteo. Buongiorno, ciao. E poi una delle ragazze protagoniste invece della particolare gita, Maria Azzolini. Ciao Maria. Ciao, buongiorno. Allora Maria, con cosa vi state portando a casa in valigia da questi 10 giorni? Ci stiamo portando a casa un sacco di emozioni, tantissime, beh, ovviamente cartoline, anche corna di animali per l'avventura che abbiamo compiuto, un sacco di amici, tanta bella esperienza, un sacco di nuove scoperte, anche ricerca scientifica che abbiamo compiuto direttamente sul campo, abbiamo raccolto dati, abbiamo visto molta natura selvaggia, bellissima, un'esperienza unica. Avete davvero in questi mesi lavorato quotidianamente alla preparazione di questo viaggio? Ha risposto alle vostre aspettative? Sì, sì, abbiamo lavorato molto, perché il nostro pro ci martellava tutti i giorni per fare qualcosa, e se non lo facevamo, sì, insomma, non era molto contento. Poi tutti i venerdì ci trovavamo per lavorare a scuola, e insomma un sacco di incontri, e ne è valsa la pena, cioè lo rifaremmo tutti da capo, tutta la fatica che abbiamo fatto. Resetsvalbard.it, questo è il portale di riferimento. Matteo, il professore, com'è andata dal punto di vista sia didattico che umano? No, da un punto di vista, diciamo, umano, l'idea era quella di un po' scrollarsi di dosso l'idea di fare sempre un po' le gite a Barcellona, Parigi, Firenze, trascinandoci dietro magari degli ragazzi anche un po' svogliati. E quindi l'idea era quella di mettere un viaggio bello, come lo farebbero proprio dei grandi, all'interno di un progetto lungo 3 anni, mettendo anche nelle mani dei ragazzi tutti gli aspetti, sia quelli di raccolta fondi e anche quelli di comunicazione, e soprattutto quello del contatto con la ricerca scientifica. Infatti abbiamo fatto qualche semplice misurazione, molto, diciamo, piccola, più significativa che altro, però fatta con i ricercatori, con degli strumenti appositi, con tutto un lavoro di preparazione e di restituzione dopo il nostro ritorno. Il tutto, eravate infatti affiancati sia dal CNR, con il Consiglio di Ricerca Italiana, che dal PEI, il Polar International Education, insomma avevate anche il supporto di professionisti, di ricercatori che dedicano la vita proprio alla scienza. Matteo, qual è stata l'esperienza più forte in questi 10 giorni? Sì, esatto, è stata un'esperienza davvero molto forte, devo dire anche che ha molto la natura, ha proprio puntato, ha riuscito a suscitare delle emozioni intensissime in tutti noi. Sono stati dei giorni davvero molto molto pieni di tantissime cose e anche ci si è raggiunto anche un livello di conoscenza reciproco che è veramente completamente, fa vedere le cose da una prospettiva completamente diversa da quella di vedere i ragazzi solo 2 ore a settimana nei 50 minuti tra una campanella e l'altra. Maria, siamo in radio, quindi con le immagini non è facile, però ci puoi far vedere qualcosa delle Svalbard, qualcosa che ti ha colpito? Quali sono le 2 o 3 immagini, visioni che più ti sono rimaste impresse? Io appena penso alle Svalbard, ai giorni che abbiamo passato, mi viene in mente i 3 giorni di tenda che abbiamo fatto camminando, facendo trekking per le bellissime montagne delle Svalbard, delle cime innevate. E con un campo da tenda che abbiamo montato noi e ci siamo portati dietro tutto negli zaini, compreso il cibo, le tende, i saccopeli. E io, se penso alle Svalbard, penso ai nostri zaini con dietro le montagne, le tende montate, le thermos, tutti insieme. E poi mi viene in mente il bellissimo ghiacciaio che abbiamo visto facendo un viaggio verso Piramide in barca. Abbiamo visto un bellissimo ghiacciaio che entrando nel mare. Sì. E poi mi viene in mente la bellissima Longyearbyen, le casette tutte colorate che mettono un'allegria pazzesca. Grazie davvero Maria, un saluto a te, un saluto a tutti i tuoi compagni di viaggio. Matteo, adesso il professore cosa farà? Arrivati a casa ci sarà l'interrogazione di inizio anno a settembre. No, prima di tutto una settimana di dormite non stop sicuramente tutti, poi un'altra settimana di lavatrici e dopo ci riprenderemo un attimo e cominceremo a mettere insieme tutte le foto e a raccontare ancora tutto attraverso sia il sito che la pagina Facebook, anche di tutte le conoscenze che abbiamo fatto. Abbiamo raccolto veramente tantissimo materiale e anche un piccolo documentario che uscirà a gennaio fatto dei professionisti che cercherà di raccontare queste esperienze davvero incredibili che abbiamo vissuto tutti. E questo è un pezzo d'Europa che ci piace raccontare. Grazie davvero a Matteo Cattadori, resetsvalbard.it, ve lo ripeto il sito per conoscere l'intero progetto. Ciao e buon viaggio di ritorno. Grazie mille, grazie a voi, buongiorno a tutti. Ci fermiamo, un euro posti, teleinformazioni per chi sta viaggiando e poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. Il progetto europeo Life Eremita cerca volontari. Sei un appassionato di insetti e hai a cuore il futuro del nostro pianeta? Il progetto europeo Life Eremita, nato per conservare 4 specie di invertebrati in pericolo, è alla ricerca di volontari per portare avanti azioni di salvataggio e percorsi di ricerca e sensibilizzazione. Le specie da aiutare sono lo scarabeo eremita odoroso e la rosaglia alpina che vivono nelle foreste e il ditisco a 2 fasce e la damigella di mercurio che abitano invece gli ambienti acquatici. La regione Emilia-Romagna è capofila del progetto e le attività di volontariato riguarderanno tutto il suo territorio. Per conoscere tutte le informazioni e inviare la vostra candidatura, visitate l'indirizzo ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-eremita. L'altra Europa. Everyone around us staring. L'altra Europa, questa settimana abbiamo letto sui quotidiani questa firma, sono stati firmati protocolli di intesa coinvolgendo il ministro Franceschini, il ministro Delrio, quindi il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, insieme al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 8 regioni coinvolte. Questo protocollo di intesa per realizzare quella che dovrebbe essere l'autostrada delle biciclette in Italia, questa rete di ciclabili che dovrebbe veramente trasformare un po' la cultura e l'approccio delle due ruote anche sulle nostre strade. Parte di questo protocollo, parte di questa rete viaria e fa parte della rete ciclabile europea Eurovelo, che è un progetto che prevede la realizzazione di una rete di 70.000 chilometri di strade ciclabili in Europa, 40.000 sono già in essere. Per fare un po' il punto della situazione abbiamo invitato Giulia Cortesi di FIAB, Federazione Italiana Amici della Bicicletta, lei è la referente in Italia per Eurovelo. Ciao Giulia, benvenuta all'Altra Europa. Buongiorno. Buongiorno. Allora, facciamo prima una fotografia. Che cos'è Eurovelo oggi? Come lei ha detto, è una rete di ciclovie. Sono le migliori ciclovie, è una selezione delle migliori ciclovie a livello nazionale, è una rete di 70.000 chilometri pianificata e gestita dalla European Cycling Federation, che ha sede a Bruxelles. L'obiettivo è di realizzarne quasi l'80% entro il 2020 ed è gestita dalla European Cycling Federation tramite dei centri nazionali di coordinamento. Giulia, scusami, quando parliamo di ciclovia è una normale strada che ha uno spazio destinato anche alle biciclette o è proprio una pista ciclabile, quindi dove passano? Dimmi. Questo, la ringrazio per aver fatto questa domanda, perché il termine ciclovia o cycle route è un termine chiave. Infatti non si tratta semplicemente soltanto di piste ciclabili, sì, ma è un insieme di strade adatte alla percorribilità in bicicletta. Perfetto. Quindi sono sia piste ciclabili in senso proprio, in senso stretto, ovvero in sede riservata, sia corsie ciclabili ricavate sulla carreggiata stradale, in condizioni di sicurezza, sì, sia strade a basso traffico o quasi senza traffico. Esiste anche un sistema di certificazione che è stato introdotto da un anno circa dalla European Cycling Federation, un sistema di certificazione delle ciclovie Eurovelo, che valuta una serie di parametri al fine di capire qual è la qualità complessiva della ciclovia. E quindi non necessariamente una pista ciclabile in assoluta sicurezza, ma con una serie di altre caratteristiche, magari di interruzioni continue, che affianco a una strada trafficata in un luogo poco ameno, sì, potrebbe complessivamente avere un punteggio inferiore rispetto a una stradina senza traffico in un contesto molto più attraente. E le ciclovie previste sono, se non erro, una dozzina gli itinerari, sì, di Eurovelo. In Europa sono 14 quelle in questo momento, però la rete si sviluppa e quindi possono essere aggiunte delle nuove ciclovie, okay, successivamente. E in Italia quali sono i tratti coinvolti? In Italia ci sono 3 ciclovie, sono 2 ciclovie che attraversano il nostro paese da nord a sud e una da est a ovest, sono complessivamente circa 6.000 chilometri e queste ciclovie sono la ciclovia mediterranea da Cadice ad Atene, che in Italia segue prevalentemente la ciclovia del Po lungo il fiume Po, sì, poi le due ciclovie nord-sud invece sono la cosiddetta ciclovia la Sun Route, la ciclovia del sole, che tra l'altro è stata l'Italia a suggerire questo nome anche all'intera ciclovia nazionale sulla scorta della iniziale pianificazione della cosiddetta ciclopista del sole, che risale al 91 dal Brennero sì, al sud. E poi la terza, la ciclovia Romea Francigena, che parte da Londra e che non si ferma a Roma ma continua utilizzando le cosiddette vie francesi del sud fino a Bengisi. Questi sono itinerari sulla carta, c'è una percentuale significativa, quanto è già stato realizzato? Sì, riguardo la Francigena, le vie Francigena lo sapremo nei prossimi mesi, perché è in corso un progetto europeo proprio di analisi dettagliata dell'intero itinerario al fine di iniziare a realizzare dei pacchetti turistici sulle parti già realizzate. Sì. E quindi ci sarà un'analisi molto dettagliata. Nel complesso la FIAB ha valutato che in Italia ci sono circa 3.000 chilometri di ciclovie di qualità, di cui parte significativa sono anche parte di Eurovelo. In particolare la ciclovia, la Sun Route, la ciclovia del sole, è quasi tutta realizzata fino a Mantova. Sì. E poi con questo protocollo d'intesa verranno ultimate le parti mancanti in maniera tale da raggiungere la città di Firenze. Eurovelo.com è il sito di riferimento. E Giulia, tu sei anche referente però e project manager per un altro progetto europeo che si chiama Bike to Work. Esatto, e qui biketowork.it è il sito di riferimento, un po' qui invece per ribaltare le città. Sì, questo progetto mira a favorire l'uso regolare e quotidiano della bicicletta nelle città. È un'iniziativa molto divertente che comincerà a settembre, a metà settembre. È una competizione tra luoghi di lavoro, tra aziende, per mettere in sella la maggior percentuale di persone all'interno della propria azienda. Ci si può ancora iscrivere a questo contest? Sì. Le iscrizioni sono aperte, quindi basta andare sul sito biketowork.it e si possono iscrivere le aziende e i loro lavoratori. Basta selezionare la voce iscriviti e ci sono tutte le istruzioni. Perfetto, a settembre poi ci sarà il momento clou e ci risentiremo sicuramente per conoscere nel dettaglio Bike to Work. Grazie davvero Giulia, buona pedalata. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Europost-it. Concorso di idee per web serie Amity Code. A tutte le società europee di produzione audiovisiva indipendenti, le organizzazioni non governative e le associazioni di promozione sociale che operano nel campo della creatività e dell'integrazione. Nell'ambito di Amity Code, progetto europeo di educazione allo sviluppo che coinvolge enti locali e ONG di 6 paesi europei, è stato lanciato il concorso di idee per la realizzazione di una web serie su migrazioni, sviluppo e diritti umani. La serie dovrà coinvolgere le comunità migranti e le amministrazioni delle 6 città in cui sarà girata: Bologna, Lisbona, Siviglia, Tolosa, Amburgo e Riga, e dovrà raccontare con creatività temi legati alle migrazioni e ai diritti umani. L'idea selezionata riceverà dall'Unione Europea 65.000 euro di finanziamento. I progetti dovranno essere inviati entro il 1 settembre 2016, seguendo le istruzioni indicate dal sito ufficiale amiticode.eu. Jumping up and down the floor, my head is an animal, and once there was an animal, it had a son that mowed the lawn. The sun was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Prendete un bisonte, fatelo nascere e crescere in un parco italiano e poi portatelo nei Carpazi. E tutto questo col cappello di un progetto europeo. Non è un fantasy, ma è un progetto importantissimo che vede il parco Natura Viva di Bussolengo protagonista, e ne parliamo con il direttore Cesare Avesani. Buongiorno Cesare. Buongiorno a voi. Ho detto bene, vero Bussolengo? Perfetto, okay, sì, perfetto. Tra Bussolengo e Pastrengo, insomma, siamo su due comuni. Sì, infatti, sì. Infatti. Allora Cesare, che cos'è questo progetto di cui abbiamo accennato qualcosa forse un annetto fa? Esatto, guarda. Intanto il bisonte è animale europeo? Assolutamente. Purtroppo la sua fama è stata oscurata dal bisonte americano, perché da tutta la filmografia americana ci è passato il grande bisonte americano, ma in realtà il suo cugino europeo è ben più minacciato, e ti dirò che era completamente estinto nel 1919, quindi abbiamo avuto la fortuna che alcuni zoo europei avevano gli ultimi 50 esemplari con 12 fondatori. E grazie a questo si è potuto cominciare nel 1919 un progetto di conservazione che dura tutt'oggi, ma questo purtroppo non ha ancora, diciamo così, determinato un esito del tutto felice, nel senso che la popolazione rimane costantemente sotto i 3.000 esemplari, cioè è più minacciata del rinoceronte nero, per capirci. Certo, quindi un animale estinto, diciamo, in natura allo stato brado, allo stato selvatico, invece alcuni esemplari conservati negli zoo, e grazie a questi esemplari si sta cercando di ripopolare le zone di provenienza, che sono prevalentemente i Carpazi in Europa. Esatto, esattamente, sì, tutta l'area dei Carpazi, che dalla Slovacchia, dalla Romania fino giù al Caucaso. Però c'è un aspetto veramente sorprendente, perché quando abbiamo portato i primi esemplari, parliamo del 2004, sì, in Slovacchia, non eravamo certi che potessero sopravvivere a climi molto più rigidi rispetto a quelli che quegli esemplari erano abituati a sopportare, e soprattutto a confrontarsi con i predatori, che lì sono numerosi, lupi in primis. Certo. E invece tutto questo si è rivelato assolutamente facile per il bisonte da superare, e devo dirti che insomma la soddisfazione è stata alta nel vedere che i nostri bisonti nati a Bussolengo riescono a superare gli inverni, riescono a confrontarsi con i predatori e sopravvivono in queste foreste splendide per certi versi, ma certamente anche molto difficili. Rewildingeurope.com è il sito di riferimento del progetto. E Cesare, ti chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo immediatamente da te per conoscere qualche altro dettaglio del progetto. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, @ Federico Taddia, Twitter e Facebook, per trovare tutti i link relativi agli argomenti che stiamo toccando, stiamo affrontando gli esiti, i lavori, la quotidianità di un progetto europeo, progetto finalizzato a reintrodurre un animale, in questo caso il bisonte europeo, che vede grande protagonista al Parco Natura Viva di Bussolengo, in provincia di Verona. E, Cesare, ma questa idea dello zoo, quindi, che non diventa più uno spazio di pura osservazione degli animali, ma diventa un laboratorio vivo, un laboratorio che permette proprio la sopravvivenza, il riportare in natura certe specie, è un'ottica nuova, una visione nuova dello zoo, ed è una rete europea che lavora proprio in questa ottica? Assolutamente, perché vedi, la cosa importante non è semplicemente riprodurre degli animali, ma anche mantenere la variabilità genetica individuale, quindi fare in modo che non ci siano reincroci tra consanguinei, per esempio, sì, che è un fatto decisivo per far sì che, diciamo, il corredo genetico dei singoli individui sia atto in futuro appunto a resistere alle reintroduzioni in natura, che sono momenti di grande, diciamo così, stress per tutto l'individuo, ovviamente. Questo è un fatto che può essere realizzato solo se c'è un coordinamento europeo, come è il caso del bisonte europeo, che è appunto una delle specie di grande interesse, iconica. Vi dirò che dietro il bisonte europeo c'è poi un mondo che si muove, perché il bisonte europeo ha un impatto sulle foreste, quindi ha un ruolo ecologico importantissimo anche per molte altre specie, quindi di fatto è quella che gli zoologi chiamano una specie bandiera. Sì. Quindi salvando lui in realtà si ripristina un ecosistema vero e proprio. Quindi ho grande soddisfazione sul fatto che Iulo, il piccolo che è nato quest'anno, nel 2019, proprio a 100 anni dall'estinzione, lui partirà per i Carpazi e sarà uno dei viaggi così, insomma, simbolici per noi di grande valore. In più cercheremo anche di portare e coinvolgere i visitatori in questo, quindi portarli anche a vedere i progetti in natura e vedere quali sono le difficoltà, capire come una popolazione anche locale si confronta con animali di oltre 1000 chili che naturalmente transita sui propri giardini, sui propri territori, certo. Che non è un aspetto da poco. Lì giù lo troverai fratelli Ulisse, Enea, Giasone, Atena, tutti nati a Bussolengo, già reintrodotti in natura, insomma. Esattamente. E il grande ciclo riparte. Grazie davvero Cesare, ricordiamo parconaturaviva.it è il sito del parco, rewildingeurope.com invece è il sito del progetto. Buon lavoro Cesare, grazie. Grazie Federico, a presto. Europost-it. Nasce NetBravo, la app che controlla la connessione. Siete cittadini europei alla perenne ricerca di una connessione internet? Allora attenzione, perché il Joint Research Center, centro comune di ricerca della Commissione europea, ha sviluppato l'applicazione che fa per voi. Si chiama NetBravo e nasce per aiutare i cittadini che si spostano in Europa a verificare la qualità dei segnali Wi-Fi, 4G, 3G e GSM ovunque si trovino. NetBravo consente all'utente di monitorare diverse caratteristiche del segnale, come la forza, la velocità di navigazione e l'uso del canale, e di consultarle facilmente su una mappa dell'Europa. L'applicazione ha lo scopo finale di aiutare gli utenti a scegliere l'operatore che fa per loro ovunque decidano di spostarsi. NetBravo è disponibile sia per iOS che per Android ed è scaricabile gratuitamente all'indirizzo netbravo.eu. Vi avevo anticipato che oggi avremmo viaggiato dal nord al sud dell'Europa, dalle isole Svalbard, dove siamo andati con i ragazzi della scuola di Rovereto, fino alla Sicilia, dove andiamo a navigare con un progetto lungo, un progetto complicato, un progetto coraggioso che però ieri appunto ha preso le vie del mare, c'è stato il suo varo definitivo, quindi un pezzo del viaggio che si è concluso, ma adesso è come se fosse una nuova ripartenza. Il progetto è l'Isca Bianca, ma l'Isca Bianca è soprattutto un'imbarcazione, l'Isca Bianca è soprattutto una storia. Ne parliamo con Elio Locascio, sociologo e presidente dell'associazione L'Isca Bianca. Ciao Elio. Buongiorno a tutte e a tutti. Sei Mi ha fatto venire i brividi con questa presentazione. Hai prolungato i brividi che abbiamo avuto per tutto il tempo in occasione della cerimonia del varo di Isca Bianca. Allora, una giornata particolare ieri, una giornata particolare oggi, perché è una sorta di open day. Elio, che cos'è l'Isca Bianca? Ricordiamolo. Allora, è bello parlarne vedendo l'Isca Bianca in questo momento in un pontile ormeggiata qui a Palermo, per cui è proprio la tocchiamo i suoi legni restaurati dai ragazzi coinvolti nel progetto. Allora, che cos'è l'Isca Bianca? Diciamo che è una barca, intanto, una barca a vela che aveva una storia straordinaria che avevamo conosciuto attraverso la libro che si chiama Le Isole Lontane. Racconta di un viaggio epico, un viaggio straordinario compiuto da due giovani pensionati palermitani negli anni Ottanta. Appunto, l'Isca Bianca è il frutto di un sogno, di una vita che finalmente si realizza quando i coniugi albeggiani riescono a farsi costruire da un mastro d'ascia di Palermo, Carlo Treviso, questa barca che era la loro casa galleggiante. Nell'84, di fronte allo scetticismo generale da parte di tantissime persone lì a Porticello, dove è iniziato il viaggio, mollano gli ormeggi e fanno questo giro intorno al mondo che dura 3 anni. E questo, appunto, viaggio stupendo, un viaggio fatto di chiaramente di tanti posti nuovi, di culture differenti, ma anche di tanti incontri. E diciamo che hanno portato la cultura siciliana in giro per il mondo e hanno conosciuto le altre culture. E questo libro ci era piaciuto così tanto che quando abbiamo scoperto che questa barca rischiava la demolizione, abbiamo deciso di lanciare questo progetto e coinvolgere quante più persone dicendo: cercati equipaggio per impresa epica. Non si trattava di rifare il giro del mondo, ma di riportare al mare l'Isca Bianca per fondamentalmente due cose. Da un lato, insegnare a dei ragazzi a restaurare imbarcazioni storiche come opportunità di lavoro futuro, ma anche, una volta restaurata, permettere a ragazzi che non hanno opportunità di navigare, appunto, nel sociale e quindi di fare attività di vela terapia. E speriamo in futuro, e questo è, diciamo, un invito che faccio a tutti i radioascoltatori, magari anche delle crociere un po' legate alla solidarietà e quindi legate al turismo sostenibile. L'iscabianca.com è il sito di riferimento, tanti gli attori coinvolti, tanti, chi nel proprio piccolo, chi in maniera un po' più incisiva ha collaborato, e con qualche sguardo europeo anche, in particolare una collaborazione con i ragazzi del Servizio Civile Internazionale, giusto? Sì, in realtà è uno scambio di gioventù in azione, sì. È uno scambio europeo con ragazzi che ci sono venuti a visitare un anno e mezzo fa. Nel frattempo passo un gommone, per cui se sentite le motorine perché siamo proprio su un pontile. Tranquillo. Dicevo, uno scambio europeo con ragazzi che un anno e mezzo fa hanno contribuito al restauro di Isca Bianca insieme a tutti gli altri attori coinvolti. Sono ragazzi, un ragazzo della Russia, una ragazza della Danimarca esperta in cantieristica navale, un ragazzo del Belgio, una ragazza francese e una ragazza tedesca. Questa è stata la prima esperienza, diciamo, europea di Isca Bianca, quando ancora la barca, appunto, era in secco. E poi l'ultima, e siamo particolarmente contenti di questo, è, diciamo, in divenire, perché abbiamo appena saputo da poche settimane che c'è stato approvato un progetto del programma Erasmus Plus, sì, nell'ambito istruzione e formazione, e quindi consentiremo a operatori della Sicilia collegati all'Isca Bianca di fare un'esperienza di conoscenza con altre realtà, chiaramente realtà che possono condividere buone pratiche sul tema dello sviluppo territoriale e della rigenerazione urbana. Per cui questa è una news, così come ieri c'è stato il varo, diciamo da settembre saremo impegnati anche a livello europeo. Elio, perché adesso, come ci hai anticipato prima, l'idea è quella di farla lavorare, tra virgolette, l'Isca Bianca, sì, dovrebbe diventare sì. il cuore di tanti progetti. Hai parlato di rigenerazione urbana, ma anche rigenerazione sociale, diciamo. Ok, questo è il sogno, questo è il segno di l'Isca Bianca che continua a crescere. Prima di salutarci, Elio, la tua emozione è tanta perché hai visto tutto il progetto, ma è quella dei ragazzi invece, anche i ragazzi magari dell'istituto penale che hanno lavorato su quella barca e l'hanno finalmente vista in acqua. I stranieri richiedenti asilo hanno collaborato al progetto, per cui i ragazzi che venivano da zone di guerra e che per un anno ogni giorno hanno lavorato per riportare acqua all'Isca Bianca, anche loro ci sono. Cosa hai visto nei loro occhi in queste ore? Allora, una grande gioia e una grande soddisfazione. 2 giorni fa ho ritirato le teche RAI, dove si vede Tg1 che fa vedere l'arrivo degli albeggiani nell'87. Nei loro occhi, nei loro sguardi c'è la gioia e la soddisfazione di aver compiuto un giro del mondo. Ieri, diciamo, le espressioni erano identiche ai coniugi albeggiani, questi ragazzi, perché all'inizio non ci credevano. Il mastro d'ascia ci aveva detto: è difficile, ma si fa. è stato difficilissimo, ce l'abbiamo fatta, soprattutto con ragazzi che non avevano mai toccato un attrezzo, e quindi alla fine un po' come lo scetticismo iniziale poi è stato superato, perché gli alvegiani hanno finito il loro giro del mondo, anche i ragazzi alla fine sono riusciti a portare in acqua l'Isca Bianca per nuove navigazioni, per cui c'è una massima gioia e soddisfazione per questo. Grazie Elio, porta il nostro saluto a tutta la grandissima ciurma di Isca Bianca. È diventato numeroso, sì. Grazie, www.liscabianca.com, così ci venite a conoscere meglio. Buon viaggio, ciao. Ciao, grazie, ciao. Adesso ci fermiamo, un Euro Post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua, con l'altra Europa. Euro Post-it. Concorso di cortometraggi Green Go. Siete amanti del verde e della natura e avete una passione per la documentaristica? CEE Web for Biodiversity, rete europea delle ONG per l'ambiente, lancia il concorso annuale di cortometraggi Green Go 2016. Sono invitati a partecipare tutti coloro che abbiano realizzato cortometraggi sui temi dell'agricoltura, dell'economia circolare e dei benefici della natura in Europa. Scopo del concorso sarà promuovere cortometraggi che sensibilizzino gli spettatori sulle tematiche ambientali e propongano soluzioni alle relative problematiche. Potrete concorrere per tre categorie: Small is Beautiful, sui problemi causati dall'agricoltura intensiva; Round and Round, sull'uso sostenibile delle risorse del pianeta; e Act Naturally, per esprimere un pensiero sulla natura europea. Le candidature dovranno essere inviate entro il 31 ottobre 2016, seguendo le istruzioni indicate sul sito greengofest.eu. L'altra Europa. Fallito colpo di Stato in Turchia, cosa succede nel programma Erasmus Plus? Ho ancora a lavoro per la scadenza di ottobre di Erasmus Plus Gioventù, ecco i formulari. Ed eccolo, Young Europe EU, l'Europa aspetta a te. Sto navigando nella homepage di agenziagiovani.it e come sempre aggiornatissimo, come sempre tante proposte per l'estate, ma si pensa già al dopo estate, soprattutto con il grande evento annuale che fa un po' il punto delle tante attività in essere, evento annuale che si terrà il 20 e 21 ottobre al Tempio di Adriano a Roma, e la parola chiave di quest'anno è proprio talento. Di tutto ciò ne parliamo con il direttore generale dell'Agenzia Nazionale per i Giovani. Diamo il ben ritornato qui all'Altra Europa, Giacomo D'Arrigo. Ciao Giacomo. Ciao Federico, buongiorno a chi ci ascolta. E credo che sia importante, prima di appunto parlare delle tante attività avete seguito e state seguendo quotidianamente, per dare indicazioni precise a chi sta facendo scambi europei, a chi per esempio ha progetti di Erasmus in programma, su quello che è successo in Turchia, perché è anche questo curare la mobilità. Sì, noi ci siamo trovati nella bizzarra situazione di avere a distanza di un mese e dover dare due aggiornamenti, uno rispetto all'Inghilterra con la Brexit, perché il programma europeo teneva dentro anche, teneva dentro Inghilterra, sì. E dopo un mese a dare un altro aggiornamento per altri motivi sulla Turchia, che invece non è un paese dell'Unione Europea ma partecipa a Erasmus Plus, ai programmi di mobilità per giovani. C'è un aspetto, diciamo, professionale da servizio pubblico, di aggiornare e informare gli utenti, le associazioni, chi partecipa, e quindi anche per dargli un riscontro al netto anche delle diverse richieste che abbiamo già avuto. E poi c'è un aspetto che ci è meno professionale, più di riflessione, che a fronte del nostro impegno quotidiano di ogni giorno ci sembra, può dare l'impressione che ci sia questa Europa oggi, forse siamo soltanto i più giovani a crederci. Tra l'altro la Turchia, lo sai, io insomma seguo tantissimo soprattutto i progetti di scambio europeo, ci sono sempre progetti bellissimi, molto creativi, di contaminazione culturale, in paesi anche, non solo nelle capitali ma anche nella provincia, quindi situazioni molto belle e stimolanti. Speriamo davvero insomma, che ci si possa riavvicinare. E altre cose, dico per questo, per dar forza al tuo ragionamento, noi come agenzia avevamo firmato un accordo con l'agenzia turca nei mesi scorsi, con diversi centri di formazione atenei, diverse associazioni, ci sono state realtà che sono state in agenzia proprio per progetti di mobilità, quindi una vivacità anche diffusa e forte che speriamo riesca a non essere, a rimanere viva e a dare un contributo, appunto, a portare, ad avvicinare l'Europa, la Turchia all'Europa. Giacomo, Young Europe EU, l'Europa aspetta te. A ottobre l'appuntamento, però già aperte le candidature. Che cos'è l'evento? Cosa cercate? Chi si può candidare? Allora, sì, come hai detto tu prima, è l'appuntamento annuale, quello che facciamo appunto ogni fine anno, in ottobre, facciamo il punto di quello fatto e il racconto di quello che mettiamo in cantiere. È un appuntamento che coinvolge 250 ragazzi a tutta Italia, è un'occasione per incontrare istituzioni, ma anche il mondo della cultura, dello sport, il mondo dell'imprenditoria. E quest'anno abbiamo scelto di mettere l'accento al tema del talento e di farlo con l'accento, con l'angolatura dell'Europa, proprio nel momento in cui l'Europa sembra essere messa in discussione, sembra dover superare un momento difficile, noi abbiamo voluto dare un'attenzione tanto e non soltanto ai giovani italiani, ma ai giovani d'Europa e come questi, attraverso la valorizzazione del loro talento e gli strumenti che l'Europa mette a loro disposizione, possono oggi più che mai dare forza alla dimensione comunitaria. E quindi da qui il titolo sulla ricerca e la valorizzazione dei talenti europei. Talenti da mettere in condivisione, lo sharing, talenti come buone pratiche da far circolare, talenti che possano trovare opportunità di sviluppo, e tanti progetti europei hanno proprio questo come obiettivo. Giovani tra i 18 e i 35 anni, bisogna dimostrare ovviamente interesse a partecipare all'evento, cercate persone che siano già protagoniste di progetti europei o di associazioni coinvolte nello spirito europeo? Sì, sia questo tipo di pubblico potenziale, cioè già chi ha fatto l'esperienza anche Erasmus Plus, chi ha già fatto l'esperienza di mobilità, ma anche chi non le ha fatte. Il nostro obiettivo è quello di rendere il programma sempre più inclusivo, quindi anche chi non ha mai partecipato, chi non ha mai beneficiato, e quindi questa qua è un'occasione per far incontrare questi due mondi, magari i primi essere di supporto ai secondi, cioè poter aiutare a raccontare e spiegare come si fa un progetto europeo, che cos'è, come si realizza, e quindi essere loro stessi, i ragazzi stessi, dei tutor, dei soggetti che spiegano, che raccontano e che accompagnano chi loro coetanei non ha mai avuto la possibilità di farlo. Inoltre, proprio nell'ottica dell'inclusione, mi fa piacere ricordare che uno dei partner di quest'anno sarà il Comitato Paralimpico. Ottobre sarà il mese dopo le Olimpiadi di Rio, ci danno dopo le Paralimpiadi, e io sto conoscendo in questo mese le esperienze di giovani e coetanei ancora più giovani di me, che affrontano la vita in maniera, con una forza di volontà incredibile, dopo aver subito incidenti o purtroppo problemi fisici che li ha resi appunto in condizioni di disabilità, e che non soltanto non si fermano, ma che oggi come oggi vanno a concorrere alle Paraolimpiadi. Quindi un tema di inclusione e di motivazione molto forte, che vogliamo che sia un esempio per i tanti giovani che non si vogliono arrendere in questo paese. Agenziagiovani.it, come sempre, il sito di riferimento. Giacomo, prima di salutarti, volevo rilanciare anche SVE in a Day, che è il concorso video sul servizio volontario europeo invece che avete promosso in occasione dei 20 anni del servizio volontario europeo. La richiesta è proprio quella di raccontare una propria giornata da volontari. Sì, il 7 dicembre. Il 7 dicembre, in quella settimana, c'è l'evento conclusivo del ventennale SVE. Quest'anno lo SVE, il servizio volontario europeo, compie 20 anni. Abbiamo dedicato un evento di apertura a marzo, abbiamo sostenuto oltre 100 appuntamenti in giro per l'Italia, adesso appunto a dicembre appuntamento conclusivo, e una delle cose che appunto vogliamo realizzare, stiamo realizzando, è quello di fare un film vero e proprio realizzato dagli stessi ragazzi che hanno vissuto queste esperienze, e quindi siano loro stessi a raccontarlo, e tutti quelli che ci manderanno il video realizzato in maniera anche semplice e banale, artigianale, con un iPhone o un telefonino, faremo un film che mette insieme tutti i pezzettini, e tutti i pezzettini che raccontano però un'unica storia, quello di un impegno civile a livello su scala continentale. SVE in a Day, l'hashtag di riferimento, anche qui sempre sul portale agenziagiovani.it, a trovare tutte le informazioni per poter partecipare a questo grande film collettivo. Grazie Giacomo, buona estate, riposati, perché mi sembra che poi ci sia una stagione intensa che ti aspetta. Tutti gli appuntamenti sul sito, non soltanto questi due, assolutamente qualche settimana di stop e poi in campo. Grazie a te Federico. Ciao, buon sabato. Ciao ciao. Ciao. Europost-it. Esce la prima guida ufficiale della Via Francigena. Attenzione, camminatori e appassionati di storia! La Via Francigena è l'itinerario culturale del Consiglio d'Europa che in Italia attraversa Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana e Lazio. In occasione dell'Anno dei Cammini, sancito dal Ministero della Cultura, esce la prima guida ufficiale della Via Francigena. Scritta dalla viaggiatrice Roberta Ferraris in collaborazione con l'Associazione Europea Vie Francigene, la guida descrive il percorso ufficiale, le tappe, i segnavia, i sentieri corretti che accompagneranno i pellegrini in un viaggio di scoperta di paesaggi inaspettati, pievi medievali e tratti di strade romane, attraverso alcuni dei borghi più belli e suggestivi d'Italia. Per informazioni sull'itinerario e sulla guida, visitate il sito viefrancigene.org. Questi sono i nostri Europost-it, che potete ritrovare e riascoltare sul sito radio24.it, da dove poter anche scaricare il podcast. Un grazie a Miriam Lucchetti e a Silvia Righini, che con me hanno scritto la puntata. Oggi in assistenza a Giovanni Melchiori, alla parte tecnica invece Andrea Roccabella. Questa è la squadra dell'Altra Europa. L'appuntamento, come sempre, è a sabato prossimo, sempre alle 12. Vi ricordo invece che domani mattina alle 9 insieme a Telmo Pievani saremo qua con Terra in Vista, le Olimpiadi spiegate a mio figlio questa estate, che dove racconteremo i grandi giochi di Rio, ma lo faremo a modo nostro, una parola in ciascuna puntata per raccontare tutte le cose che lo sport insegna. Domani parleremo di corsa. Ancora ciao, ancora buon sabato da Federico Taddia. L'Altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.